Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Da Mussolini a Stalin, da Fidel Castro a Hugo Chavez, da sempre i tiranni di destra e sinistra esercitano un fascino speciale per molti intellettuali. Cosa si nasconde dietro queste insolite passioni? Si chiede Pierluigi Battista nel suo ultimo libro I conformisti. Jan Buruma ha spiegato come mai molti intellettuali della sinistra occidentale si siano infatuati per l'ultimo dei dittatori sanguinari che opprimono i paesi poveri. Il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, che seduce i cuori fanatizzati dall'antiamericanismo. Ma l'antiamericanismo non basta. L'altro ingrediente indispensabile dell'incantamento per il despota liberticida è invece la peculiare fatuità degli intellettuali, perennemente ammagliati dalle dittature. Votati a mille cause sbagliate, culturalmente schiavi di ogni seduzione totalitaria, impermeabili a ogni principio di realtà. George Orwell, uno dei più grandi e coraggiosi saggisti politici del XX secolo, si interrogava sull'enigmatico fenomeno di scrittori, poeti, artisti, registi, sensibilissimi e geniali artefici di opere immortali, eppure destinati, nel loro approccio alla politica, a vedere ottenebrate le pur smaglianti facoltà mentali di cui erano dotati. Paul Johnson ha ricordato le parole di Bertolt Brecht, grande drammaturgo, di fronte alla mattanza degli anni staliniani. Più innocenti sono, più meritano una pallottola in testa. Martin Heidegger vide nel Führer il compimento di millenni di metafisica. Ingordo di dittature, George Bernard Shaw volle battere ogni record nell'arte del panegirico rivoluzionario e giunse a elogiare contemporaneamente Stalin e Mussolini. E del resto furono frequenti e movimentati i passaggi dall'uno all'altro totalitarismo. Pochi giorni prima di togliersi la vita, uno scrittore finissimo come Pierre Drieu La Rochelle meditava la trasmigrazione intellettuale dal filonazismo antisemita alla purezza bolscevica dell'Armata Rossa trionfante. Delio Cantimori passò dal fascismo al comunismo e gli storici ancora tentano di capire quanto comunismo già fosse presente nella sua scelta fascista e quanto fascismo sia rimasto nella sua nuova identità comunista. Politicamente soggiogati dalle sirene totalitarie, gli intellettuali cantori delle dittature sembravano versati persino nell'arte della delazione e in quello della denigrazione nei confronti di chi, anziché sottostare alla menzogna politica, pretendeva di guardare la realtà annebbiata dal dogma. Non c'è da stupirsi se dopo Lenin e Mao, Stalin e Hitler, Mussolini e Fidel Castro, molti intellettuali, orfani del mito rivoluzionario e antiburghese, siano alla ricerca spasmodica di nuove leggende. Chi si lamenta della scomparsa dei grandi maître à penser dovrebbe ricredersi. Gli intellettuali sono sempre troppo prodighi propalatori di sciocchezze politiche. Si leggano i loro romanzi, si assista alle loro pièce teatrali degne del Nobel, si guardino i loro film, si ammirino le loro opere d'arte, ma senza farsi impressionare dalle loro roboanti indicazioni politiche, sempre immancabilmente sbagliate. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Pierluigi Battista, I conformisti, Rizzoli Editore, 224 pagine, 18 euro. Letture di Radio 24. Spesso capita che un presunto colpevole, dopo aver passato anni in carcere, venga rilasciato con tante scuse in quanto comprovato innocente. Ma non sempre è facile dimostrare la propria innocenza e quando si viene accusati ingiustamente per presunti abusi commessi su minori, diventa quasi impossibile. La cronaca degli ultimi anni è piena di casi che riguardano adulti ingiustamente accusati e minori sottratti ai genitori, per reati che poi sono risultati inesistenti. Tutto ha inizio con un bimbo di Massa Finalese in provincia di Modena, all'ora di 3 anni, sottratto insieme alla sorellina a una famiglia con gravi problemi economici,